visionari ogni giovedì dalle 14 alle 15 per parlare di cinema. La scaletta della trasmissione di oggi la trovate sul sito internet della radio www.ondarossa.info, alla voce trasmissioni visionari. Gli ospiti di questa puntata, le uscite in sala di oggi giovedì 14 marzo, le nostre indicazioni, i nostri suggerimenti sui film già in programmazione a Roma e provincia, i film in TV per quanto riguarda la programmazione del piccolo schermo e poi gli appuntamenti della settimana tra rassegne, proiezioni e festival in tutta Italia. Poi il link per riascoltare la puntata precedente e in fondo alla pagina il link che rimanda all'archivio del 2013 e a quello del 2012. Dicevo del nostro primo ospite, dovrebbe essere Antonio Rezza con Flavia Mastrella per un'anteprima milanese di un loro nuovo documentario. Proviamo adesso a metterci in collegamento. Vi ricordo intanto i nostri contatti, l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. E poi per inviarci sms in diretta il numero è 342-357-4357. Per ascoltarci in streaming basta andare sul sito della radio www.ondarossa.info, sulla home page c'è l'opzione ascolta la diretta e poi c'è anche la pagina Facebook di Visionari ed è tutto. Antonio Rezza, ben ritrovato! Non so quando mai cercato per ritrovarmi. Beh, non è la prima volta che ci sentiamo d'altro campo. Ah, in quel senso, sì, in quel senso. Certo. Come stai? Certo. Bene, purtroppo bene. Purtroppo bene, ma sei a Milano? Sì, siamo a Milano con Fratto X, quindi siamo contenti. Che è il vostro ultimo spettacolo, ho avuto il piacere di vederlo per dicembre scorso qui a Roma al Teatro Vascello, però noi ci sentiamo oggi perché presentate in anteprima il vostro documentario Troppolitani, Valle Occupato, allo Spazio Oberdan il 17 marzo. Intanto cominciamo, poi sentiremo anche Flavia Mastrella che in questo momento non è lì con te, però insomma raccontaci un po' come è nato questo progetto, Antonio. Ma è nato da una volontà degli occupanti del Valle che ci hanno chiesto appunto di girare qualcosa per come giriamo noi sull'occupazione del teatro. Poi chiaramente noi non abbiamo girato soltanto sull'occupazione del teatro, ma abbiamo fatto un documento che parla dell'occupazione, parla della Roma fuori dal Teatro Valle, parla del ruolo morale, diciamo, dell'attore. Cioè del significato dell'attore oggi, di quanto veramente a una società sana possano servire gli attori. Sì. Quindi diventa un documento veramente che implode, insomma, perché c'è da una parte l'occupazione, dall'altra una Roma che non sa nemmeno che il teatro è occupato, dall'altra l'attore che deve risolvere le sue contraddizioni interne, cioè si deve trasformare da occupante a magari, che ne so, interprete di fiction, quindi deve risolvere alcune, e il risultato è veramente notevole a nostro non modesto punto di vista. Senti Antonio, facciamo però un passo indietro. Il progetto Troppolitani, ecco, per chi non lo conoscesse, quei disperati che non lo conoscono, come nasce e in cosa consiste Troppolitani? Consiste in una sollecitazione che ci viene da Anna Maria Catricalà, che ci disse di fare queste interviste per Rai 3. Poi vennero talmente bene che non ce le hanno fatte fare più. Adesso continuiamo a girarle per conto nostro. Sono interviste a corpo libero tra la gente di Roma in vari ambienti, insomma, affollati, uffici di collocamento, cimiteri, gente che correva, stazioni metropolitane, scuole elementari. Quindi era veramente una riflessione antropologica. Adesso li giriamo per conto nostro, ce li produciamo noi, purtroppo la Rai 3 di adesso non accetta queste cose, insomma, dicono che inquinano una linea editoriale. Quindi, accidenti. Quindi questo dicono. Questo dicono. Senti Antonio, sì. Ma quali perché sono le nostre cose inquinano una linea editoriale? È certo. Senti, le tematiche che affrontate in queste interviste nei luoghi più disparati, dai cimiteri agli uffici di collocamento? Ma non lo so, è molto metafisica. Noi scriviamo sempre un testo che prevede delle domande, poi sono intervistati a dare un indirizzo diverso, sia scritto che performativo, cioè un happening in mezzo alla strada con la gente che poi ci segue, perché ci consideravano improbabili come truppo istituzionale, quindi ci creavano queste situazioni miste, che però facevano bene a quello che facevamo. Senti Antonio, è prevista anche la presentazione qui a Roma, ovviamente, avremo modo di risentirci. Ci sono già delle date? C'è già una data? Guarda, dovremmo farla entro metà aprile, questa presentazione al Teatro Valle del film. Okay. E poi il film era stato, cioè la storia di questo film è abbastanza strana, perché poi noi l'abbiamo presentato ai vari festival, tra cui a Roma, dove c'era Mario Sesti che doveva appoggiare questo progetto, perché Mario Sesti ha seguito l'occupazione, eccetera, sì, eccetera. I ragazzi del Valle glielo hanno fatto vedere, lui invece di appoggiarlo ha detto che non era un film che poteva andare a Roma. Quindi diciamo, ci succede quello che è giusto che accada, cioè con la raccomandazione uno viene respinto. E questo è giusto, spero che a noi accada sempre questo. Senti Antonio, che lui doveva aiutarci a ottaguare il progetto, cioè veramente quello che è giusto che accada a chi cerca di farsi aiutare, insomma. Bene. Senti, allora, adesso sento Flavia, mi dicevano qui in radio che ti vogliamo per una serata per la radio. Tra l'altro il 24 maggio ricorre il nostro compleanno, quindi vediamo di organizzarci, di mettere... Guarda, facciamo una cosa e diamo una notizia che farà appunto venire adesso chi è in collegamento. Noi a dicembre, sì, possiamo già dirlo, faremo 6 settimane al Vascello con un'antologia dei 4 spettacoli pesanti, Photo Finish, Bamut, 7-14, 21-28 e Fratto X, e quindi Roma, che ci ha regalato un'esperienza quest'anno incredibile con tutte le persone che sono venute, messa in preallarme, perché poi noi chiaramente senza pubblico non ci divertiamo. Certo. Bene, allora... non è solo il pubblico che si diverte, ecco, questo volevo dire. Esatto. Ci divertiamo tanto anche noi. Bene, abbiamo dato quest'anteprima, un abbraccio, a risentirci prossimamente per questa presentazione romana, Antonio. Grazie a voi, ci sentiamo, quando c'è la data ve lo diciamo. Okay? Ok, a presto. Chiamate Flavia che vi aspetta, grazie. Sì, ciao, che la chiamo, ciao. Questo era Antonio Rezza, adesso Flavia Mastrella. Così, subito in diretta, Flavia Mastrella. D'improvviso. Così. Come stai, Flavia? Sto bene, tutto a posto. Qua a Milano va bene come a Roma. Bene, allora, abbiamo scambiato un paio di battute con Antonio, un altro paio le scambiamo con te. Io volevo chiederti, come mai questa scelta di Milano per presentare Troppolitani Valle Occupato allo spazio Oberdan il 17 marzo? Perché ci sembrava doveroso, il lavoro è bello, poi è stato fatto con molto trasporto e è giusto che sia visibile, perché solleva dei punti pure importanti, sia nel costume dell'avanguardia che nella lotta politica, che purtroppo si è un po' affievolita ultimamente. Senti, come è strutturato? Perché Antonio ci diceva, da una parte l'occupazione del Valle, dall'altra la Roma spesso anche inconsapevole di quello che sta succedendo, e poi un riflettore puntato sul ruolo dell'attore. Ecco, come l'avete strutturato materialmente il documentario? Nel teatro c'è il colore e fuori all'aperto c'è il bianco e il nero. Noi abbiamo analizzato più la Roma di Campodifiori, sì, questi così un po' anche inadeguati al momento storico, comunque divertente, e il bianco e nero dà un esterno, diciamo, senza possibilità, è l'unica nota pessimista. E rispetto alla funzione dell'attore, come l'avete reso la questione? L'attore, cioè, l'attore Antonio fa una domanda, se praticamente chiede all'attore se interpreta ruoli di gente che sta male, perché non dà un contributo anche a chi sta male del suo guadagno. E questo, cioè, questo sta a significare che ci stanno dei ruoli molto poco epici nel cinema, nella televisione. Si esalta parecchio il quotidiano pure triste. Senti Flavia, allora ricordiamo l'appuntamento con Troppolitani, Valle Occupato, la presentazione ufficiale allo Spazio Oberdan a Milano il 17 marzo, poi diceva Antonio che entro la metà di aprile si farà anche a Roma, quindi avremo modo anche di risentirci con tutti e due voi. Va bene, allora va bene? Prestissimo. Un abbraccio. Ciao, a Roma lo faremo al Valle, spero. Certo. Buona trasferta a Milano. Ciao cara. Grazie, ciao. Ciao ciao. Allora, prima Antonio Rezza, poi Flavia Mastrella, che insieme hanno girato questo documentario Troppolitani, Valle Occupato. Questo è Visionari su Onda Rossa. Proseguiamo oggi diversi ospiti, sempre, quasi sempre documentaristi. Alessandro Rossi, co-regista del documentario Doc Save the Green, all'interno della nona edizione d'Italia Doc, la Casa del Cinema qui a Roma, il 20, il 21, il 23 e il 24 marzo. Benvenuto a Visionari su Onda Rossa, Alessandro. Grazie mille, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. Allora, mi interessava molto, a parte che stiamo seguendo i lavori di Maurizio, che Maurizio Di Rienzo ha portato all'interno della sua rassegna, lo seguiamo tutti gli anni, e con particolare poi attenzione questa trasmissione dedica un ampio spazio ai documentaristi, ma poi anche il tema, God Save the Green. Allora, di cosa stiamo parlando, Alessandro? Stiamo parlando di verde urbano, inteso non come giardini pubblici o verde proposto e impostato dalle amministrazioni, ma come verde inventato, riconquistato, ricreato da comunità di persone che in varie parti del mondo, a varie latitudini, all'interno delle città, soprattutto all'interno delle periferie delle città, decidono di impugnare la vanga e la zappa per modificare i luoghi dove vivono, i quartieri dove vivono, renderli più belli e prodursi verdure da mangiare e produrre soprattutto spazi nuovi di socialità. Alessandro, come è nato questa voglia di realizzarne, insomma, come avete conosciuto intanto il fenomeno e come è nata la spinta a realizzarne un documentario? Ma eravamo partiti da un'idea di un lavoro su un tema importante della globalizzazione, che è quello del diritto al cibo e della sovranità alimentare. Ci eravamo già in passato occupati di tematiche legate appunto alla globalizzazione, come ad esempio avevamo lavorato sui farmaci, sul problema dell'accesso ai farmaci. Lavorando invece nella ricerca sul diritto al cibo e alla sovranità alimentare, abbiamo intercettato questo movimento globale, internazionale, non particolarmente collegato nelle varie parti del mondo, ma diffuso in moltissimi paesi, che è quello appunto dell'agricivismo, della riappropriazione di spazi di territorio urbano, tenendo in considerazione che, come ormai tutti sanno, nel 2007 c'è stato il salto della popolazione, per cui la popolazione è passata ad essere in prevalenza residente in zone rurali a residenti in città, quindi la maggior parte dei cittadini del mondo sono effettivamente cittadini, cioè abitano nelle città, in zone urbane. In quali spazi urbani vi siete addentrati? Ma siamo andati a Casablanca, in una bidonville di Casablanca che si chiama Ramna, poi siamo stati in una slum, uno dei tanti slum di Nairobi, Matare, poi in una città del nord-est del Brasile, in uno stato molto tra i più poveri del Brasile, che è il Piauí, la cui capitale è Teresina, appunto abbiamo girato a Teresina, e poi invece per il cosiddetto primo mondo, insomma i paesi ricchi, c'è Torino, Bologna e Berlino, soprattutto una forte presenza di movimenti di agricivismo berlinesi, che sono un po' la punta di diamante, la parte più attiva forse del mondo occidentale rispetto a questi tanti. Alessandro, quali sono le peculiarità di ogni agglomerato urbano che avete individuato e avete testimoniato, e quali sono invece le caratteristiche che accomunano un po' tutti? Ma le peculiarità sono soprattutto le differenze a differenti latitudini, corrispondono a differenti necessità. Questa è una banalità da dire, però è chiaro che coltivare degli ortaggi, delle verdure nella bidonville di Nairobi ha una necessità primaria collegata al fabbisogno alimentare, perché dentro una bidonville non c'è terreno coltivabile, o quel poco che c'è è contaminato da liquami e sporcizia, perché il reperimento di cibi freschi è molto difficile per chi abita in questi posti terribili, e quindi lì c'è una necessità primaria che è il mangiare, e il mangiare qualcosa che non sia coltivato in mezzo alle fogne, insomma, quindi riuscire ad avere anche una condizione igienica e sanitaria minima. Mentre nel nord del mondo, ad esempio Berlino, c'è un'esigenza legata anche al superamento della cementificazione, quindi cercare di far comprendere alla comunità e ai cittadini che gli spazi urbani non necessariamente devono essere edificati, ma gli spazi urbani sono anzi forse più belli se sono lasciati alla gestione diretta dei cittadini, e quindi utilizzati come giardini, come orti, come spazi incontro libero, insomma. Immagino che sia un fenomeno in via di sviluppo, si sta diffondendo, però d'altro canto c'è anche di pari passo un sempre crescente consumo di suolo. Assolutamente sì, questa è la tragedia, soprattutto in un paese come l'Italia, dove il consumo di suolo quotidiano raggiunge dei livelli spaventosi e non si riesce mai ad arrivare a una definizione di norme, di leggi che blocchino questa oscenità e questa assurdità, perché non c'è più bisogno di costruire in questi termini come si costruiva negli anni 60, non c'è più questa necessità di espansione edilizia se non per motivi meramente finanziari, di speculazione finanziaria. Quindi tutte le nostre periferie sono piene di zone artigianali abbandonate e con accapannoni o edifici industriali nuovi mai usati o schiere di casette, casettine inutili, insomma. Quindi questo è il dramma, insomma, non solo in Italia, ovviamente in Italia è molto forte. Noi abbiamo cercato di raccontare però di non denunciare molto nel nostro, non è un documentario di denuncia, è un documentario che mostra storie positive. Esempi virtuosi. Esempi virtuosi, ci sono persone, sono accomunate dal saper fare, sono persone che hanno voglia di fare, che hanno un sapere pratico che rimettono in circuito, nella comunità, e che sorridono. Se verrete a vederlo vedrete molti sorrisi. Molti sorrisi. Senti Alessandro, queste persone, dicevi, spesso anche non sono in collegamento tra loro, ma comunque all'interno di uno spazio urbano singolo si coordinano in qualche modo, fanno rete? Sì, soprattutto nelle grandi città occidentali ci sono grosse reti di, ad esempio il Guerriglia Gardening è un movimento molto ben articolato che sul web, in comunicazione anche tra paese e paese, tra nazione e nazione, quindi si prendono spunti reciproci, si copiano idee, si danno consigli, quindi c'è un movimento anche collegato ovviamente, per fortuna, perché è una cosa, piantare piante, fiori, eccetera, è una cosa che si impara dagli altri, si impara facendo, quindi c'è bisogno di condividere anche i saperi. Sì. Allora, voi sarete la settimana prossima alla Casa del Cinema a presentare il vostro lavoro. Volevo chiederti se c'è già un programma di proiezioni anche al di là di queste date romane, e se c'è un vostro sito internet di riferimento. Allora, sì, siamo molto contenti perché Cineteca di Bologna, che è un'istituzione culturale della nostra città, ha adottato il nostro film insieme ad altri documentari e li sta distribuendo, cioè sta provando a portarli in giro nelle sale cinematografiche. Per quanto riguarda God Save the Green, avremo più di 40 proiezioni in circa 30 città italiane. Abbiamo iniziato a Bologna, che è la nostra città, la settimana scorsa, con un successo che ci ha molto sorpreso e ci fa molto piacere, perché abbiamo avuto 10 proiezioni con 150 spettatori per ogni proiezione. Quindi c'è voglia di vedere questo film, e saremo appunto a Roma per 4 repliche, per 4 proiezioni, poi faremo Milano, Torino. Spesso facciamo proiezioni anche in collegamento ed insieme ad associazioni e gruppi che lavorano su questi temi. Ad esempio a Milano saremo con la Terra Trema, che è una realtà molto importante per la città. Tutti i dati si trovano sul nostro sito, i nostri due siti, uno quello del film, che è godsavesgreen.it, oppure mammutfilm.it, che è il sito della nostra società di produzione. Alessandro, ti ringrazio, un abbraccio e a risentirci presto. Grazie mille a te, e speriamo di vederci il 20 a Roma. Esatto. Un abbraccio, ciao. Grazie, ciao ciao. Alessandro Rossi, co-regista del documentario God Save the Green, all'interno della nona edizione di Italia Doc, alla Casa del Cinema qui a Roma, il 20, 21, 23 e 24 marzo. Stefano Lodovichi, regista del film A Quadro, in uscita gratuitamente su cubovision.it a partire da domani, 15 marzo. Stefano, benvenuto a Visionari su Onda Rossa. Buongiorno a tutti. Allora, A Quadro, raccontaci un po' di questa storia. Sì, allora, A Quadro è la storia d'amore tra Amando e Alberto, due ragazzi di 16 anni che scelgono di filmare la prima volta che fanno sesso. E è una storia d'amore che è stata prodotta da Mood Film con Rai Cinema insieme al contributo di BLS, che è la Business Location Sud Tirol, la Film Commission di Bolzano. E questo film fa parte di un progetto di 10 web movies realizzati da Rai Cinema per il web. Allora, ho visto anche il trailer, non sono riuscito ancora a vedere il film, però insomma la tematica mi sembra piuttosto interessante. Da una parte la tendenza all'esibizionismo, figlia anche di una cultura esasperata, un culto esasperato dell'immagine. Dall'altra una tendenza che va di pari passo, insomma mi sembra il contraltare, alla gogna via web. Di cui sono vittima spesso i giovani protagonisti e vittime i giovani. Allora, dici un po' di questo, delle intenzioni che stanno dietro al film. Sì, guarda, insieme a Davide Orsini, che è lo sceneggiatore che ha scritto con me il film, abbiamo cercato di capire cosa potesse esserci dietro a eventi sempre più frequenti come questi, quindi video porno che vanno online, di amatoriali, di storie, diciamo, video che rappresentano rapporti tra coppie, quindi persone molto normali. E ci siamo chiesti se dietro a questi video porno, appunto, non ci fosse qualcosa di più puro del semplice esibizionismo, come dicevi te. Quindi, in fin dei conti, abbiamo cercato di capire che questo tipo di video che vengono realizzati, finché sono segreti, finché sono il prodotto alla fine di una storia d'amore e quindi una realizzazione tra due persone, sono soltanto dei segreti e che non hanno niente di male. Però nel momento in cui vengono pubblicati, nel momento in cui vengono visti da tutti quanti, è proprio lì che diventano dei video porno. Ecco, cosa c'è dietro a questa tendenza invece alla gogna, come possiamo definirla, tra virgolette? Ma guarda, secondo me è una questione anche di moda, perché comunque non ci mettiamo realmente a capire quali sono i problemi dei ragazzi. In questo caso noi raccontiamo la storia di due ragazzi di 16 anni più o meno, quindi è un mondo che va compreso il loro, è un mondo che va capito, analizzato bene, perché si tratta molto spesso di situazioni che arrivano all'eccesso, ma arrivano all'eccesso perché comunque sono figlie di un'educazione, di un modo di affrontare la scuola, i rapporti tra genitori e figli, che porta a creare una sorta di gap, un vuoto, questo vuoto che in nel quale stanno i ragazzi e che viene penato quindi dal web. Mm-hmm. In questo caso possono essere, può essere di tutti i tipi, questo, quelle risposte che cercano, che vengono cercate su internet, possono essere di tutti i tipi, da come fare una torta a tutorial che ti insegnano invece come mettersi per la prima volta un assorbente interno. Internet sta prendendo il posto in parte dei genitori, in parte della scuola, e in questo caso sicuramente ti istruisce. Molte volte però ci troviamo in situazioni in cui quelle risposte che puoi trovare sono soltanto risposte virtuali. Mm-hmm. E quindi la differenza tra quello che è la verità, quello che tu trovi in giro quando mettiamo conosci una persona e ti innamori di una persona, e quello che invece hai imparato guardando i video, in questo caso parliamo di un'educazione al sesso, un'educazione anche sentimentale, è proprio un altro, si tratta proprio di una distanza enorme. Mm-hmm. Stefano, come vi siete preparati al film? Come vi siete documentati? Ma guarda, abbiamo tutto quanto iniziato da dei video di cronaca di qualche anno fa, che sono usciti alcuni video molto famosi, scandali italiani, e poi abbiamo trovato che comunque a cascata questo mondo ci ha portato veramente a trovare tantissimi esempi di coppie che dopo essersi filmate pubblicavano il video, vuoi per vendetta perché uno lasciava l'altro, vuoi per esibizionismo, ma comunque il mondo è pieno, ci abbiamo trovato veramente su internet, ci ha aiutato tantissimo a me e a Davide a trovare gli spunti di analisi per cercare di capire questi ragazzi. Mm-hmm. E devo dire che comunque è stato molto, molto strano rendersi conto che come trovavi un esempio, un fatto di cronaca, ne arrivavano altri 10, altri 20, sì, sempre più presenti, sempre più vicini a te. Mm-hmm. L'ultimo è di poche settimane fa, è successo proprio nella mia città, a Grosseto, quindi comunque sono cose che sono intorno a noi e quindi fa molto strano rendersi conto che magari, ad esempio dal punto di vista di un genitore, scoprire che il figlio è così distante da te e da una vita in quel modo, è tutto molto strano, è strano, è una parola molto vaga, molto generica, però spiazzante quantomeno. Sì, certamente. Mm-hmm. Certamente. Stefano, la scelta di questa piattaforma gratuita, cubovision.it, parlacene un po'. Guarda, allora, tutto è nato con il premio Solinas Experimenta. Io e Davide abbiamo mandato la sceneggiatura e siamo arrivati in finale. Da lì il Rai Cinema ci ha fatto la proposta di partecipare a questo progetto Web Movies, di un progetto di film a basso costo proprio per il web, perché hanno sentito che il nostro film era adatto probabilmente a questo lavoro, a questo tipo di pacchetto di film. E allora abbiamo cercato di capire che questa situazione poteva essere sicuramente la migliore per noi. Il film comunque parla di internet, parla di ragazzi, parla con un linguaggio comunque giovane, un linguaggio che appartiene ai ragazzi, perché comunque si tratta di, ho cercato di fare un lavoro che mette insieme differenti supporti linguistici come iPhone, smartphone, qualunque tipo di smartphone, comunque webcam e camere normali. E quindi il nostro film era un film molto adatto per entrare nel mondo di internet, in questo caso. E noi abbiamo trovato in Cubovision, comunque in Rai Cinema Channel, la possibilità di poter godere al meglio di una piattaforma come questa. Mm-hmm. Non sarà la sala, ovviamente, perché comunque non possiamo, questo non è un film per il cinema. Però comunque abbiamo, grazie a internet, la possibilità di far vedere questo film a più persone possibile, ed è la cosa più importante in questo caso. Mm-hmm. Bene, allora, da domani sulla piattaforma cubovision.it gratuitamente. Sì. Io ti abbraccio e ti do appuntamento magari alle prossime novità. Perfetto, grazie tante allora. Ciao Stefano. Ciao, buona giornata. Stefano Lodovichi, regista del film A Quadro, in uscita domani appunto su cubovision.it. Questo è Visionari su Onda Rossa, ogni giovedì dalle 14 alle 15. Per comunicare con noi l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Per inviarci degli sms in diretta il numero è 342-357-4357. Ecco, noi Massimiliano Verdesca, regista del film Viva Zappatore, in uscita domani 15 marzo per distribuzione indipendente. Massimiliano, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie, buongiorno, ciao a tutti. Allora, cosa racconti in Viva Zappatore? Viva Zappatore è la storia di Marcello Zappatore, chitarrista metal, militante in una band satanista, a cui Dio fa il grande regalo delle stigma che gli creerà fondamentalmente i grossi problemi, perché verrà cacciato dalla band e sarà costretto a ritornare a vivere con la madre fondamentalista cattolica, dove troverà oltretutto sua nonna, che è Sandra Milo, che è una ex cantante, e quindi formerà una band con lei e tutto si risolverà per il meglio, diciamo, ecco. Dove si svolge il tutto? Il film si svolge per lo più a San Cataldo, che è la marina di Lecce, quindi diciamo in Salento. San Cataldo, che è questa marina che all'inverno è praticamente abbandonata a se stessa, e offre, diciamo, un luogo metafisico dove poteva essere ambientata una storia un po' assurda come questa, ecco. Infatti sono assente comparse e cose varie, cioè è come se fosse una bolla in cui si svolge questa storia. Questo. Allora, heavy metal, satanismo e un'attrice di 80 anni come Sandra Milo, come sei riuscito a mettere insieme tutto questo? Guarda, Sandra è venuta al casting e appena l'ho vista insieme a Marcello Zappatore si è creata subito un'alchimia stranissima, per cui lei ha cominciato a prendere in giro lui, perché lui non è molto distante da quello che è fondamentalmente il personaggio, quindi è un tipo silenzioso, potresti farti 10 ore di viaggio e probabilmente se tu non parli lui non parla, ecco, quindi e quindi lei ha cominciato subito a prenderlo in giro per questa cosa, chiamandolo Marcellino, come faceva quel grande Mastro Ianni, senza fare paragoni naturalmente, però insomma è stato subito un'alchimia che era, diciamo, palese, e quindi poi lei si è creato subito un bel rapporto con me, quindi niente, è stato naturale, diciamo, che poi fosse lei. Oltretutto, se vedete poi il film, ha un'energia pazzesca Sandra, anche sul palco, ecco. È una vera Tina Turner, devo dire, ha 80 anni, insomma. Allora, Massimiliano, mi dici che il tuo protagonista non è così distante dalla realtà, quindi immagino che tutto sia nato da un'amicizia, questa, l'idea di farne un film. Io e Marcello eravamo compagni in liceo, andavamo a scuola insieme, e poi dopo 10 anni che non ci vedevamo né sentivamo, MTV mi chiese di fare un ritratto di un personaggio legato alla musica, non so per quale motivo mi venne in mente lui, e dopo 10 anni lo ritrovai, che era esattamente uguale a quando avevamo dai 14 ai 18, diciamo, e quindi niente, fondamentalmente andai lì a casa sua e girai ore e ore di materiale in cui non succedeva assolutamente nulla, e ho pensato che forse questo nulla poteva essere riempito con tutte le mie paturne, i miei viaggi, ecco, e si è trasformato nel mio vuoto a rendere, diciamo. Vuoto a rendere mi piace come sì, soluzione. Sì, perché, insomma, senti, potrei anche girare qualsiasi tipo di film con lui, ecco, perché comunque sarebbe lui, potrei girare un poliziesco, però sarebbe sempre Zappatore. Senti, una musica di nicchia come l'heavy metal, un sud pugliese, che realtà c'è musicalmente? Guarda, musicalmente il Salento devo dire che è super vivo, nel senso che sì, ci sono... Sì. L'estate sembra di stare a New York, ecco, da maggio fino a settembre c'è di tutto, da Lou Reed alle sagre della pizzica, diciamo, quindi sì. C'è veramente un parterre completo di qualsiasi genere musicale. C'è una scena metal nei bassi fondi che si aggira, oltretutto i ragazzi, i metallari, diciamo, che vediamo nel film sono veramente così, non li ho, sono ragazzi di Lecce, di Gallipoli, insomma della provincia di Lecce, che fondamentalmente fanno loro stessi, no? Ecco, non è che cambia molto, non ho inventato niente, tutti i personaggi assurdi che ci sono nel film non li ho inventati io, ma sono venuti al casting, io li ho solo inseriti nella storia. Senti, invece il satanismo, come dicevi prima, una paturnia tua, oppure è una realtà in effetti che... Sai, forse la generazione mia, io sono del 76, prima, quando hai 12-13 anni... 14, così, le prime cose che ascolti sono i chitarristi, almeno all'epoca si ascoltavano i virtuosi chitarristi, e quindi quel periodo era metal fondamentalmente, oppure hard rock, AC/DC, Iron Maiden e cose varie. E quindi diciamo che di base c'era questo. Poi in un certo senso, quando ci siamo rincontrati con Marcello, lui suonava nei Kiss of Death, che era una band metal di Lecce, e quindi la storia fondamentalmente nacque in quel periodo. Diciamo che la prima cosa che mi è venuta da pensare, il primo problema che poteva avere un metallaro grosso era Dio, insomma. Volevo anche sottolineare che diciamo che il percorso di questo film, compreso il corto che abbiamo girato nel 2004-2005 se non sbaglio, 2005 non ricordo, però coincide con delle date importanti per la Chiesa romana, dato che quando girammo il corto l'ultimo giorno di shooting morì Papa Wojtyła, e adesso che esce il film è stato nominato il nuovo Papa, insomma non so come mai, però andiamo di pari passo. Sembrano dei segni, insomma. Lasciamo stare, noto solo le coincidenze. Senti Massimiliano, la scelta di un'uscita insieme a distribuzione indipendente, che comunque è una realtà che stiamo seguendo fin da prima che nascesse, e poi insomma con attenzione la seguiamo passo passo. Guarda, è stata un gran culo, se si può dire, nel senso che i ragazzi mi avevano contattato un anno prima, no, forse io avevo contattato loro, non ricordo, solo che loro avevano già chiuso il catalogo dell'anno scorso, quindi non si era potuto fare niente. Poi per caso l'anno dopo, io non avendo trovato ancora una distribuzione, mi venne in mente tramite amici comuni che insomma loro ancora diciamo dovevano chiudere il catalogo di quest'anno, e comunque sapevo che avevano apprezzato il film quando l'avevamo visto, e quindi li ho richiamati, e insomma è successo tutto così. Devo dire che il film era uscito in America l'anno prima, perché abbiamo vinto questo festival a Brooklyn, e lì non è che si fanno tanti problemi, nel senso che il giorno dopo che abbiamo vinto il festival siamo andati a pranzo con una distribuzione, abbiamo firmato il contratto e il film è uscito in DVD online in America un anno prima che uscisse qui, e quindi niente, è stato diciamo un po' un giro di amicizie comuni che hanno fatto sì che questo venisse, quindi ringrazio loro, perché comunque io mi sono tolto un grande peso, perché voglio dire, sono 3 anni che ho fatto questo film, ancora. No, no, stavo ero sorpreso. Il film è del 2010, quindi cioè è finito di girare nel 2010 e si è chiuso nel 2010, quindi diciamo che sono quasi 3 anni pieni che cerchiamo una via d'uscita. Poi il film è fatto sui giri nei vari festival, oppure proiezioni indipendenti, appunto, cioè, soprattutto a Roma. C'è tipo Anthony Torre, che è un ragazzo che come è innamorato del film. E l'ha portato in giro ovunque, cioè appena c'era una rassegna non esitava a inserirlo, oppure, e quindi piano piano insomma il film è stato visto in giro, solo che sai, se insomma ci impieghi tanti anni per fare una cosa, certo, poi ufficialmente non esiste, un po' ti rimane male, ecco. Quindi finalmente ci siamo tolti questo peso. Certo, no, il buono è che comunque prima c'è stata un'uscita americana. sì, no, quello è stato insomma, diciamo, senti, che è inaspettato, ecco, quindi però. Allora, tra rassegne e festival comunque c'è stata una piccola circuitazione qui in Italia. I riscontri, Massimiliano, come sono stati? Guarda, io penso che sia un film che lo ami o lo odi, nel senso che non è un film da via di mezzo, ecco, non è un film che poi dice è carino oppure insomma, però devo dire che c'è stato molto riscontro tra ragazzi, insomma io ho avuto diciamo molti complimenti da molti ragazzi, ho avuto delle critiche feroci da altre, soprattutto da gente un po' più grande, diciamo critici o intellettuali, naturalmente, anche perché voglio dire il film ha di per sé una vera naif che può, alcuni può dare anche fastidio, soprattutto magari a una critica un po' più ortodossa, diciamo, ecco. Però diciamo che quel naif che forse viene un po' da YouTube, quelle cose lì, perché Marcello comunque è anche un personaggio di YouTube, perché suona, insomma, se mettete Marcello Zappolera su YouTube escono centinaia di suoi video che suona da solo in casa, diciamo che è quella l'energia, ecco, quindi diciamo il popolo apprezza molto. Va bene, in uscita domani 15 marzo con distribuzione indipendente. Massimiliano, un abbraccio e a risentirci. Grazie tante, arrivederci. A presto, speriamo in altri progetti. Sì. ciao, grazie. Ciao. Massimiliano Verdesca, regista di Viva Zappatore. Marco Bonfanti. Sì, buongiorno. Allora, regista del documentario L'ultimo pastore, uscito nell'ambito di una rassegna, se non sbaglio, l'11 marzo scorso, e ha cominciato così il suo giro. Benvenuto intanto a Visionari su Radio Onda Rossa, Marco. Grazie mille, buongiorno a voi, grazie dell'ospitata. Allora, intanto partiamo da una locandina molto suggestiva. C'è il Duomo di Milano con un gregge di pecore davanti, che sono le pecore del tuo pastore, quello che hai raccontato nel tuo documentario, il che insomma rimanda subito chiaramente all'immagine religiosa del gregge davanti a una chiesa, insomma. Infatti un po' scherzosamente dicevamo in questi giorni, perché il giorno in cui abbiamo portato le pecore in piazza del Duomo era lo stesso giorno in cui Angelo Scola diventava vescovo, insomma cardinale della diocesi di Milano, quindi ho detto se dovesse diventare papa mi devono fare profeta in qualche modo. Senti Marco, allora la tua storia, tra l'altro noto come sulla pastorizia come anche sulla pesca abbiamo avuto modo di parlare di diversi documentari che stanno circolando da un po' di tempo a questa parte, quindi insomma è un mestiere che ha destato molta attenzione. La tua storia come è nata? Allora, la mia storia è nata perché c'è stato un professore della Bocconi, Francesco Bertolini, al quale stavo proponendo un progetto di cortometraggio, mi ha detto così, dal nulla, mi ha detto: ma tu lo sai che ci sono ancora delle pecore, un pastore che circolano per Milano? Io subito mi sono illuminato, ho detto non è possibile. Anche se inizialmente ho pensato, sì, sarà il solito pecoraio con 3 o 4 pecore. Quando poi ho scoperto che quest'uomo girava con 1500 capi all'interno di Milano, che è una delle città più cementificate d'Europa, sicuramente la città più cementificata d'Italia, ho detto non posso non raccontare questo personaggio. Senti, e come succede tutto questo? Perché immagino che ci siano delle difficoltà per far circolare un gregge dentro una metropoli. Ci sono grandi difficoltà, infatti all'interno del film ci sono diverse immagini suggestive che mostrano appunto lui che attraversa provinciali, c'è una scena in cui lui attraversa una provinciale alle 6 del pomeriggio a Milano, posso assicurarti che è un vero delirio, e blocca il traffico, quindi si forma una coda incredibile. Alcuni protestano, altri invece, infatti dico spesso questa frase, non eravamo i soli a fare il film in quel momento, perché la gente scendeva dalle macchine e tirava fuori queste videocamere che non si sa esattamente, probabilmente gli italiani tengono le videocamere nelle macchine, e cominciavano anche loro a fare fotografie, video con gli iPhone. E quindi in realtà c'è una grossa attrazione nei confronti di questo personaggio, perché chiaramente essendo l'ultimo che circola ancora per Milano, quando fa queste follie attira l'attenzione. Tant'è che infatti lui inizialmente, quando io gli ho proposto di fare il film, credeva che io fossi di Striscia la Notizia, cioè che volessi denunciarlo del fatto che portasse in giro le pecore in questo modo. E quindi sì, ci sono tantissime immagini suggestive, però ti posso assicurare che lui è veramente... ormai sono 20 anni, 30 anni che lo fa all'interno della città, quindi è molto bravo. E poi, bene o male, riesce anche a fregarsene, insomma, del traffico. Senti, sembra dalla breve sinossi che ho letto della scheda del film che quello di arrivare al centro di Milano fosse un suo sogno. E poi questo titolo, L'ultimo pastore, dà un po' una vena di leggenda intorno a questa figura. Sì. Effettivamente, infatti il film in sé non è un vero e proprio documentario, nel senso che è concepito quasi come un film di fiction, dove però lui è reale, perché compie questo viaggio partendo dall'alta montagna, sulle montagne del Bergamasco, dei posti mozzafiato, e decide di intraprendere la sua transumanza per arrivare nel centro della città e riconquistare con la sua umanità, insomma con questo mestiere millenario che si porta dietro, questo luogo, che è uno dei luoghi più deumanizzati che ci sono in Italia, ma anche in Europa, sì, in qualche modo. Sì. Quindi compie questo viaggio tra mille peripezie, molto bizzarro, per riuscire ad incontrare i bambini della grande città, che purtroppo, lo dico sempre in maniera abbastanza atterrita, non sono consapevoli di che cosa sia purtroppo oggi un pastore, non hanno mai visto una pecora. Alcuni all'interno del film rispondono a delle domande come se hai mai visto un pastore? Sì, me lo immagino vestito come Arlecchino. Oppure un'altra bambina dice: sì, il pastore porta il latte nei supermercati tutte le mattine. Sì, c'è una dimensione fiabesca intorno a questo sogno di far conoscere ai bambini questa realtà. Però d'altronde il titolo ha piuttosto ragione, nel senso che è un mestiere che comunque sta apparendo negli altri documentari di cui abbiamo parlato, sempre a tema pastorizia, e oltre a questo problema di una scomparsa lenta, parte dei pastori rimasti vengono dall'est, dove c'era una forte tradizione, e qui oggi disposti a fare la pastorizia sono soprattutto loro. Sì, è vero, infatti questo mi è stato detto, anche se sulla Bergamasca, a dirti la verità, un pochino questa tradizione continua a resistere. Uno dei motivi in realtà di fascinazione su di me, cioè quello che mi ha portato soprattutto a raccontare questa storia, è proprio il fatto che in realtà l'uomo, in qualche modo l'essere umano, nasce pastore nomade. Sì. Cioè, si tramanda, probabilmente si dice da decine di migliaia di anni, probabilmente anche da qualche milione di anni, anche se noi non abbiamo gli archetipi per risalire sino ad allora. Però l'essere umano, noi siamo arrivati fino a qua in questo modo, e io mi sono domandato, ma in questi ultimi 20-30 anni, con questa accelerazione spaventosa del progresso, che sta spazzando via appunto questo mestiere, l'uomo dove sta andando? E mi era sembrato in realtà che lui, infatti il film più che di pastorizia in realtà racconta proprio questo incrocio, lui è la rappresentanza tra la tradizione e il progresso, perché lui vive dentro il progresso, ha una moglie, è imprenditore, il kebab a Milano è fatto con la carne delle sue pecore, quindi per tutti gli ascoltatori che andranno a mangiare il kebab a Milano, si sappia che insomma sono le pecore di Renato. Quindi a me interessava questo forte incrocio, cioè l'idea di quest'uomo che riuscisse a vivere con un piede da una parte e un piede dall'altra. Mm-hmm. In realtà il film racconta soprattutto quello. Sì. Senti Marco, allora all'interno di due rassegne, se non sbaglio, hai inserito una è l'Italia che non si vede, rassegna itinerante del cinema del Reale, e l'altra è l'Italia si racconta. Comunque ha cominciato il suo tour in giro per l'Italia. Volevo chiederti se c'è un sito internet di riferimento. Sì, www.l'ultimopastore.it. Benissimo. C'è anche il calendario delle proiezioni. In realtà adesso siamo stati al Cinema Mexico, la serata è stata un grandissimo successo, quindi replichiamo lunedì, e poi ci è stato detto che il cinema ci terrà. Bene. E il Cinema Mexico, che è il cinema del vento fa il suo giro, in realtà è un grande privilegio che ci tenga fissi per lungo tempo. Sì, e poi il 7 maggio invece usciremo appunto in 17 sale contemporaneamente sul Lazio, di cui 8 a Roma. Eh sì, magari avremo modo anche di riparlarne, perché no? Speriamo. Marco, io ti ringrazio, un abbraccio e a risentirci grazie presto. Grazie mille, buona giornata, grazie. Ciao. Ciao, ciao. Marco Bonfanti, regista del documentario L'ultimo pastore, uscito l'11 marzo scorso. In collegamento con Massimo Danolfi, co-regista del documentario Materia Oscura, che sarà presentato ufficialmente al Bari International Film Festival e al Bergamo Film Meeting nella stessa data, il 16 marzo. Massimo, ben ritrovato su Onda Rossa Visionari. Buongiorno a tutti, come c'è anche Martina Parenti, quindi insomma, che è l'altra Andiamo. Regista. Sì, certo. Allora, saluto anche a Martina. Massimo, si parla di Salto di Quirra, io ho avuto modo di vederlo, il documentario, intanto complimenti. Grazie. Si parla di una zona militare all'interno della Sardegna con grossi problemi ambientali, una discarica che produce inquinamento e soprattutto, peggio ancora, radioattività. Allora, sì, il nostro film è girato all'interno del poligono sperimentale di Salto di Quirra, che è il poligono sperimentale più grande d'Europa. Il nostro però non è un film di denuncia proprio nella sua struttura cinematografica, è un film in qualche modo dove noi raccontiamo quel luogo per lo più senza parole. Le uniche parole che si sentono nel film sono quelle della voce del procuratore

Certo. È una questione grande. In Sardegna è pieno di poligoni, questo sì, è semplicemente il più grande. Mm-hmm. Senti, e dal punto di vista processuale, com'è la situazione? Dunque, esattamente, forse credo lo sappia meglio Massi. Il processo è alle sue fasi iniziali, no, comincerà ufficialmente quest'estate probabilmente. Quindi ci sarà modo anche magari di riparlarne con voi di questa situazione. Allora, una presentazione all'interno del Bari Film Festival e del Bergamo Film Meeting, e poi che ne sarà di Materia Oscura? Stiamo aspettando per una distribuzione che non è ancora ben definita, ma speriamo che possa uscire nelle sale. Materia Oscura è il titolo, dalla tendenza militare ai segreti? Non ho capito. Il titolo Materia Oscura viene un po' dalla tendenza militare a tenere segreti? No, la materia oscura è la materia quella di cui non si sa, di cui è fatto per il 90% la realtà, ma di cui non si conosce bene la vera entità. È un po' così, un gioco sul cinema, sì. Sull'invisibile, sullo sconosciuto. Vabbè, poi chiaramente fa venire in mente anche la questione delle scorie radioattive. Uno dei passaggi del film racconta proprio di questa presenza in varie, tra animali, suolo e persone, insomma, di questo torio. Volevo chiederti anche se c'è un vostro sito internet dove si può vedere una eventuale delle eventuali date di proiezione e distribuzione. No, allora non c'è ancora un sito internet, perché siamo in attesa appunto della distribuzione, quindi per ora c'è soltanto il trailer su Vimeo e su YouTube. Poi comunque nel giro credo di un mesetto capiremo questa cosa. Bene. Comunque sì, la materia oscura è proprio il cinema, sì. In qualche modo sul cinema, quindi sull'invisibile, su ciò che non si vede, ma che in realtà c'è, insomma. Questa è la guida un po' di tutto il film, insomma, perché purtroppo invece quello che di nocivo c'è in quel posto non è così oscuro, diciamoci la verità, molto evidente. Sì, purtroppo. Abbastanza evidente. Massimo, di nuovo complimenti, ci sentiamo magari più in là quando avremo delle certezze maggiori rispetto alla distribuzione del film. La distribuzione, okay. Esatto. Ancora grazie e a presto. Grazie a voi, buona giornata. Ciao. Tutto questo per quanto riguarda il documentario Materia Oscura, a Visionari su Radio Onda Rossa, il giovedì dalle 14 alle 15. Di nuovo i contatti per inviarci posta elettronica, l'indirizzo è visionari@ondarossa.info, c'è la pagina Facebook dedicata proprio a Visionari, per gli SMS in diretta 342-357-4357. Luciano Barcaroli, co-regista del documentario Giuseppe Tornatore, ogni film è un'opera prima, in uscita il 18 marzo prossimo. Luciano, benvenuto a Visionari su Onda Rossa. Ciao Federico, ciao a tutti gli ascoltatori di Onda Rossa. Allora, chiaramente prima la domanda: perché un film su Giuseppe Tornatore? Ma guarda, l'idea è stata principalmente di Gianni Russo, uno dei produttori della serie Libero, che ci ha proposto questo progetto. Noi avevamo lavorato insieme ad un nostro precedente documentario su Terence Malick di 10 anni fa. Era tantissimo tempo che non ci occupavamo di cineasti, che era, diciamo, stata l'attività principale mia, di Gerardo Panichi, che è il coautore del documentario, e ci è sembrato un modo interessante di ritornare a parlare, più che realizzare una biografia vera e propria, anche proprio di tornare a parlare di cinema rispetto a un oggetto cinematografico come quello di Tornatore, che è più un fenomeno, era un fenomeno, diciamo, anche un po' lontano rispetto alle nostre frequentazioni. Quindi per noi è risultata una sfida molto interessante, abbiamo cercato di realizzarlo con molta onestà intellettuale, abbiamo scoperto cose che non ci erano note, ecco, su di lui e sul suo modo di approcciare al cinema, che non è diciamo che è molto molto soverchiato spesso da un'immagine pubblica che è tornato molto ingombrante, ecco. Abbiamo cercato di sfrondarla, di arrivare al cuore, diciamo, della sua autorialità. Oh, tra l'altro questo esce fuori già in parte dal titolo, ogni film un'opera prima, che evidenzia un po' un approccio in qualche modo pieno di entusiasmo ogni volta che si avvicina a un nuovo progetto. Ecco, e quali sono a tuo modo di vedere le caratteristiche principali del suo modo di fare cinema? Ma guarda, detto bene, noi abbiamo scelto un titolo che in realtà ci sembra rispecchi molto il suo modo di affrontare la sua, diciamo, professione. In realtà quello che fa spesso di un autore vero, è proprio l'identità tra la sua vita, la sua opera e la sua attività. Noi abbiamo visto che Tornatore, rispetto a quello che la gente potrebbe aspettarsi da quello che sa di lui, in realtà tende sempre a cercare di mettersi in gioco nei suoi film in maniera nuova, in maniera vergine. E questo ha conquistato sia me che Gerardo, e credo che è l'aspetto che venga maggiormente fuori all'interno del documentario, perché poi, facendo lui un cinema, diciamo, di carattere diciamo popolare dal punto di vista dell'apprezzamento del pubblico, sì, si perde un po' la lettura dei temi che sono sotto, diciamo, sono sottesi ai suoi film. Io penso che la sua genuinità, ecco, nell'approccio al non solo al mezzo cinematografico, ma anche ai contenuti che intende veicolare attraverso i suoi film, sia quello che in realtà ne costituisce la grande vitalità. Ecco. Luciano, nell'avvicinarvi alla sua opera, avete individuato in qualche modo una linea di conduzione rispetto al suo percorso artistico? C'è un percorso in tutto questo suo lavoro? Ma guarda, questa è la domanda proprio per eccellenza, la domanda che tra l'altro a tutte le persone che abbiamo intervistato nel documentario abbiamo fatto per ultima, proprio perché ci sembrava una domanda critica, nel senso che Tornatore in realtà ogni film che fa sembra cambiare direzione in qualche modo, non rispetta mai la direzione che ha inaugurato col film precedente. Per cui ci sembra anche la domanda più difficile, insomma, a cui rispondere. Credo che quello che viene fuori dal documentario sia sostanzialmente, questo lo dico a posteriori, perché anche lavorandoci sopra, insomma, è una domanda che è rimasta sempre via, sia il fatto che lui sia molto fedele a se stesso, sì. Nel senso che rimane fedele proprio anche al progetto dei suoi film, e rispecchiano il momento che sta vivendo. E per questo abbiamo usato una formula narrativa che cercasse di individuare in ogni film un tema che poi si ricollegasse alla sua personalità. Quello che accomuna tutti i suoi film è lui, rispetto all'altro documentario che avevamo fatto, nel quale Malik per esempio era assente, non c'era, parlavano tutti di lui ma lui non c'era, anche per ovviamente per scelte personali. Qui lui ce l'avevamo ed è stato anche molto generoso, diciamo, nel raccontarsi. Però quello che abbiamo cercato di fare è stato proprio di circoscrivere di circoscrivere i temi che i singoli film potevano esprimere per dare un ritratto compiuto della sua personalità. È stato un documentario un po' particolare, insomma, a prima vista può sembrare anche semplice, però in realtà il percorso di ricerca non lo era, tant'è vero che inizialmente il working title era Lo sconosciuto, parafrasando uno dei suoi film, proprio perché ci sembrava che anche la critica si fosse divisa nel tempo tra agiografi e detrattori, però senza mai affrontare di petto, un po' con un po' più, diciamo, di serietà, sto generalizzando ovviamente, ci sono stati molti critici che invece ne hanno affrontato l'opera in maniera anche doviziosa, però diciamo, in generale quello che abbiamo voluto fare è stato cercare di invitare lo spettatore a vedere quello che c'è sotto i suoi film, più che raccontare quello che già tutti sapevano, ecco. Luciano, in chiusura, la Stile Libero Produzioni, visto che insomma è un lavoro che avete realizzato insieme, questa esperienza? Guarda, Stile Libero è una produzione in realtà abbastanza nuova. Sono produttori indipendenti che hanno sicuramente delle ambizioni interessanti. Noi abbiamo collaborato con loro per 2 anni per realizzare questo film. È stato un, ripeto, insomma, nonostante l'oggetto del nostro documentario, non è stato un progetto facile. Si stanno impegnando tantissimo anche per distribuirlo. Tu citavi appunto l'uscita al cinema, saranno 3 giorni negli Space Cinema, che è comunque un circuito interessante per un documentario. Tra l'altro abbiamo avuto modo di conoscere proprio ieri gli organizzatori della parte documentaria della circolazione cinematografica di Space Cinema, sono bravissimi ragazzi pieni di volontà. Noi speriamo insomma che... credo che l'esperienza sia stata buona. Penso che ecco, insomma, crescendo, perché hanno pochi anni di vita, insomma, possano fare ancora di più. Poi parlando con Gianni, che so che conosci, insomma, potrei vedere gli altri progetti che hanno in cantiere, che sono molto interessanti. Va bene, allora io ti ringrazio, un in bocca al lupo chiaramente a te, a Gianni, per questo vostro lavoro che uscirà, ripetiamolo, il 18 marzo nelle sale, e a risentirci presto. A presto Federico, grazie a te e grazie per lo spazio. Ciao ciao. Ciao. Bene, siamo in chiusura per quanto riguarda Visionari, l'appuntamento è giovedì prossimo, sempre dalle 14 alle 15, tutte le informazioni sul sito internet della radio www.ondarossa.info, alla voce trasmissioni Visionari, dove trovate gli ospiti di questa puntata, le uscite in sala di oggi giovedì 14 marzo, le nostre indicazioni, i nostri suggerimenti sui film già in programmazione a Roma e provincia, i film in TV per quanto riguarda la settimana sul piccolo schermo, gli altri appuntamenti della settimana tra festival, rassegne e proiezioni in giro per l'Italia, il link che vi rimanda alla puntata precedente e all'archivio del 2013 e del 2012. Per comunicare con noi l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info, gli sms al numero 342 357 4357, poi c'è la pagina Facebook